Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Torna a diminuire la popolazione in Friuli Venezia Giulia dopo un flebile segno più l'anno scorso. Il tasso di variazione è di nuovo negativo. A meno di una settimana dal Vinitaly, lo spettro dei dazi USA incombe su vino e agroalimentari. Al congresso FAI CISL i timori del settore. Un lavoro serale o nel fine settimana, Trieste, prima università d'Italia a proporre agli studenti contratti part-time in locali e negozi della città. 36 milioni per il personale medico, schiarite tra l'assessore Riccardi e le sigle dei dirigenti sanitari, distinguo sulla riorganizzazione ospedaliera. Banda di ladri trasfertisti arrestata dai carabinieri, un tedesco, un austriaco, un kosovaro fermati in un B&B udinese dopo un tentato colpo in Cadore. 75 titoli da 11 paesi al prossimo Far East Film Festival di Udine, appena presentato. Gelso d'oro a Silvia Chang, icona del mondo artistico orientale. 12:31 minuti, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Diminuiscono, anche se di poco, gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, ora siamo 1.194.000. L'Istat ha presentato a Roma l'altro ieri gli indicatori demografici aggiornati, sentiamo. Torna a diminuire la popolazione in Friuli Venezia Giulia. Dopo un flebile segno più l'anno passato, il tasso di variazione per 1.000 abitanti torna a essere negativo, meno 0,4. In Italia è meno 0,6, leggermente peggiore, ma a nord-est e nord-ovest il segno è positivo, rispettivamente più 1,4 e più 1,8. Nel 2024 gli indicatori demografici Istat inducevano un ottimismo maggiore, ma la stima di 4.000 persone in più dell'anno passato, rispetto a quello precedente, è stata rivista a ribasso, solo più 368 unità, quando sono usciti i dati del censimento, che sono più precisi, soprattutto sulle cancellazioni. Così tra qualche settimana i residenti potrebbero risultare qualche centinaia in meno rispetto a quelli che leggiamo oggi. Come dice Alessio Fornasin, professore di demografia all'Università di Udine, di solito accade così, i dati anagrafici ci danno una popolazione un po' più alta di quella che è in realtà, poi questi dati vengono corretti con un certo ritardo quando escono le informazioni del censimento permanente della popolazione. 6.900 le nascite, meno 1,4% sul 2023. Cala ancora il numero medio di figli per donna, arrivato a 1,19 nel 2024. Fa ancora peggio l'Italia, con 1,18 figli per donna, superando proprio quel 1,19 che fu il minimo storico nel 1995. Siamo lontani da quei due figli per donna che porterebbero a invertire la tendenza e le politiche demografiche sembrano solo tamponare l'emorragia. Come dice il professor Fornasin, ci sono stati risultati temporanei anche discretamente buoni, come in Germania, però sia in questo paese che a livello europeo sta calando la fecondità già da diversi anni. La regione può far qualcosa, ma le politiche demografiche è bene che vengano applicate a livelli più ampi, italiano o meglio ancora europeo. Aumenta la speranza di vita in Friuli Venezia Giulia e resta negativo il tasso di crescita naturale, più che doppia la mortalità rispetto alla natalità. Positivo invece il tasso migratorio. Come conclude il professor Fornasin, la nostra regione può contare anche su un saldo migratorio positivo con altre regioni italiane e questo fa sì che la perdita di abitanti del Friuli Venezia Giulia sia più contenuta rispetto ad altre regioni italiane. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E passiamo alla stagione congressuale della CISL che continua. Questa mattina a Trieste i lavori della FAI che segue il comparto agroalimentare. Sul tavolo temi cruciali come il caporalato e i dazi americani sulle importazioni dall'Europa. Il presidente americano Donald Trump annuncerà questa sera alle ore 22, ora italiana, quali prodotti subiranno i temuti dazi americani al momento dell'esportazione negli Stati Uniti. Se si dovessero toccare i prodotti agroalimentari, a subire danni pesanti sarebbe anche il Friuli Venezia Giulia ed è questo uno dei temi centrali del congresso regionale della FAI CISL che si tiene a Trieste. Il mercato americano per il nostro territorio vale 167 milioni di euro, ha detto Stefano Gobbo, segretario FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, che qui con me. Segretario, le chiedo, ma di quali prodotti parliamo soprattutto e che conseguenze si ipotizzano? Parliamo principalmente di prodotti vitivinicoli, quindi produzioni di vini, produzione di formaggi DOP, produzione ad esempio di esportazione come prosciutto di San Daniele, tutte esportazioni che sono particolarmente richieste in America, in quanto appunto made in Italy, che si trasformano in produzioni di alta qualità e tipicità del territorio. State cercando altri mercati, spostare questa quantità di beni in altri paesi, è possibile, è conveniente? Al momento abbiamo alcuni segnali che gli imprenditori stiano valutando altri canali commerciali, spostando le richieste verso paesi orientali. Certo è che nell'immediato è molto difficile da realizzare in un contesto di scenari economici che sono veramente particolari. Aziende piccole potrebbero essere a rischio? Assolutamente sì, perché le aziende piccole sono quelle con minor capacità commerciale e quindi potrebbero essere quelle più esposte. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un'iniziativa unica in Italia, quella lanciata dall'Università degli Studi di Trieste per aiutare i propri studenti a firmare contratti di lavoro part-time in bar e ristoranti della città per rendersi un po' autonomi dalle famiglie ma senza ostacolare lo studio. Lavorare di sera o durante il fine settimana per conciliare i ritmi delle lezioni all'università, gli esami e la necessità di mantenersi durante gli studi. È la nuova iniziativa dell'Università di Trieste, la prima in Italia a farlo. Si chiama Work and Study e propone ai propri studenti contratti di lavoro part-time in locale di esercizi della città senza ostacolare lo studio, che rimane l'attività principale degli universitari. Michele Tritta, caposettore orientamento e servizi agli studenti dell'Università di Trieste. Questo progetto è importante perché proprio darà priorità allo studio, quindi ci sarà un'intesa con l'agenzia per il lavoro che contrattualizzerà i ragazzi in modo tale che se uno per esempio quella settimana dovrà studiare magari potrà essere un po' più libero rispetto ad altre persone, rispetto ad altri tipi di lavoro. Per i datori di lavoro è un vantaggio perché dispongono di giovani brillanti, preparati e con una buona preparazione nelle lingue. Per i ragazzi, oltre ad assicurare un'entrata, è un elemento che, come si dice, fa curriculum. Vediamo nei colloqui di lavoro che chi anche ha fatto delle esperienze di lavoro durante gli studi viene visto con più attenzione da parte delle aziende che poi li selezioneranno una volta conseguiti gli studi. Al momento le richieste dei ragazzi sono circa 200 a fronte di circa 30 posti, ma si prevede che aumenteranno con l'arrivo della stagione estiva. Il progetto in fase sperimentale dura un anno. Per la selezione e l'indirizzo l'università si è affidata a un'agenzia del lavoro. Michele Kovacic, People Advisor di Adecco Italia. L'impegno che ci diamo in questo progetto è soprattutto seguire, essere accanto agli studenti in modo da far emergere quello che è il loro potenziale in primis, ma anche tutte le competenze trasversali necessarie oggi e fondamentali nel mondo del lavoro. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Regione Friuli Venezia Giulia auspica un ripensamento in fase di conversione del decreto legge sulla cittadinanza. A dirlo è l'assessore regionale con delega ai corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, in merito alla discussione in corso sul decreto legge sulla cittadinanza, che consentirebbe la trasmissione automatica della cittadinanza solo a coloro che hanno almeno un genitore o un nonno o nonna nati in Italia. L'esperienza storica del territorio regionale è caratterizzata da diverse fasi migratorie, alcune uniche nel loro genere. Per questo, dice Roberti, negli anni la Regione ha investito ingenti risorse su progetti che tenessero vivo il contatto tra quelle comunità all'estero e il Friuli Venezia Giulia, favorendo anche rientri che oggi possono dare risposte alle necessità di giovani lavoratori e che con i programmi che prevedono qui la formazione di giovani che si sentono vicini ai nostri valori, a differenza di quanto invece avviene, conclude Roberti, con altre migrazioni spesso illegali. Primo confronto regionale tra l'assessore alla salute Riccardi e i sindacati della dirigenza sanitaria sui temi legati alla politica del personale. Seppure tra posizioni distinte, ha dato segnali di apertura tra le parti, a cominciare dalle risorse economiche fresche in arrivo dalla regione. Sul tavolo 36 milioni di euro per il personale sanitario da spendere quest'anno. L'assessore regionale alla salute Riccardi, nel darne notizie ai sindacati della dirigenza sanitaria riuniti nella sede della Protezione Civile a Palmanova, dati alla mano, sottolinea che il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che investe di più sul personale rispetto alla media nazionale, il 6% in più, ma richiama anche alla necessità di riorganizzare il sistema sanitario ospedaliero regionale che a fronte dell'elevata spesa non risulta produrre adeguatamente. L'incontro è stato accolto positivamente fortemente dai sindacati. Il clima di apertura pare aver sciolto le tensioni degli ultimi tempi. L'auspicio è che il confronto ora vada avanti, mentre si continua a vigilare sull'operato della Regione. Tutti soddisfatti sulle nuove risorse messe sul piatto. Quanto alla riorganizzazione ospedaliera, difende intanto l'operato dei sanitari il segretario regionale della Federazione Cimo Fesmed, Andolfato. Non sono messi nelle condizioni di operare al meglio perché oberati dalla burocrazia, afferma, invitando a rilevare le sacche di inoperosità tra gli addetti ai servizi amministrativi. Necessaria la riorganizzazione per la NAO, che da tempo ne ha fatto un suo cavallo di battaglia. Il segretario regionale Tosto si dice inoltre soddisfatto del nuovo approccio sulla politica del personale. Bene anche l'apertura sulle politiche di welfare aziendale, che si augura non restino sulla carta. Quanto infine alla partnership col privato, per Tosto è un'alternativa che in questo periodo di grave carenza di personale può essere d'aiuto, purché la governance resti in capo al pubblico. Non la pensa così il presidente regionale della Roy Emac, Pera Toner, che esprime invece forti preoccupazioni sulle possibili privatizzazioni ed esternalizzazioni e sulla riorganizzazione della rete degli ospedali. Stiamo ancora aspettando, dice, i chiarimenti sul punto che insieme alla UIL abbiamo formalmente richiesto, ma che ancora non sono arrivati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso il tavolo sindacale per la vertenza a Tirso, che ha confermato la chiusura l'azienda tessile di Trieste. Roncadin la vorrebbe acquistare e riassorbirne anche il personale. Il tavolo in corso al momento ancora non arrivano notizie, che però dovrebbero arrivare dopo le due. È presente anche le risorse umane della Roncadin, il dirigente Tomba, oltre all'ufficio regionale e anche ai sindacalisti della Tirso. Più tardi gli aggiornamenti. Ora la cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Udine, con quelli di Tolmezzo e di Bolzano, hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato 3 cittadini kosovari di 43, 38 e 37 anni, residenti in Germania, in Austria e Kosovo, e con diversi precedenti all'estero per vari tipi di reato, tra cui proprio quelli contro il patrimonio. I tre, che erano ospiti di un bed and breakfast nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Udine, durante la notte tra sabato e domenica scorsi, a bordo di due auto, hanno raggiunto San Pietro di Cadore in provincia di Belluno e hanno tentato di forzare la cassaforte di uno sportello bancomat. Pur avendo provocato seri danni alla struttura, i malviventi, una banda di cosiddetti trasfertisti, non sono riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto nel cavò. Al loro rientro a Udine sono stati bloccati dai carabinieri nel bed and breakfast dove erano alloggiati e perquisiti. Sono stati trovati in possesso di attrezzi, rice trasmittenti, un coltello con lama lunga, 3.000 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato. I tre sono stati poi portati al carcere di Udine. Oggi la convalida dell'arresto e il trasferimento del fascicolo a Belluno. Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza della sindrome dello spettro autistico. Fra i progetti in regione c'è anche quello del centro residenziale per l'autismo San Giovanni de Mata Medea nel Goriziano, una struttura che da 7 anni accoglie persone adulte autistiche. Nelle scuole elementari della provincia sarà distribuito un libro di cui ci parla la psicologa che ha curato l'iniziativa, Lisa Amarussen. Il centro residenziale per l'autismo di Medea, in occasione della giornata del 2 aprile, ha realizzato un piccolo libricino con l'intenzione di parlare ai bambini della scuola primaria in merito a questa condizione. Alla realizzazione hanno preso parte gli ospiti e gli operatori del centro, e il libricino contiene la spiegazione di quelle che sono alcune caratteristiche dell'autismo. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di semplificare il concetto di spettro dell'autismo, spiegando in modo chiaro e accessibile affinché i bambini possano capire che ogni persona, anche se diversa, ha le proprie peculiarità e il proprio valore. Perché vi rivolgete ai bambini? È molto raro, di solito ci si rivolge agli adulti e sono gli educatori a rivolgersi ai bimbi a spiegare. Perché pensiamo che educare fin dalla scuola primaria alla comprensione delle diversità significhi semplificare la costruzione di una società più inclusiva e sensibile. E se abituiamo i bambini alla comprensione e al rispetto delle differenze, saranno più predisposti a vivere in modo empatico e solidale con i loro coetanei e anche con quelli che presentano condizioni di diversità. Quindi ci siamo rivolti ai bambini con l'intenzione di seminare oggi nella speranza di raccogliere un domani più inclusivo e consapevole. Ci sono diversi tipi di autismo di diversi gradi. Perché sapere ed essere consapevoli aiuta anche chi ne soffre, non soltanto le famiglie? È fondamentale sapere cos'è l'autismo, perché la consapevolezza porta a una maggiore comprensione e accettazione, permette di ridurre i pregiudizi e le paure che spesso derivano dal fatto di non conoscere ciò che appare diverso. Per chi vive nello spettro dell'autismo, una maggiore consapevolezza da parte degli altri può fare una grande differenza. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo al meteo a Trieste. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature. A Trieste ci sono 16 gradi, vento a 50 km orari, bora, con raffiche che hanno raggiunto i 95 km orari. A Udine ci sono 18 gradi, a Pordenone 19, a Gorizia 18. Tolmezzo 18, Forni di Sopra 11,5. 11 gradi a Piancavallo, 9 gradi a Piancavallo e 11 gradi a Tarvisio, a Sappada 6, sul Monte Zoncolan 2, sul Lussari 0 gradi, sulla costa a Lignano 16 e a Grado 17. Le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora da moderata a sostenuta, con possibili raffiche anche forti nella notte fino al mattino sul Carso e a Trieste. Domani cielo sereno, poco nuvoloso fino al mattino, soffierà ancora borino sulla costa. 27 anni di Far East Film Festival a Udine. Questa mattina la presentazione della rassegna di cinematografia asiatica che inizierà il 27 aprile. Una storia che dura da 27 anni e che si rinnova alla scoperta di un cinema, quello d'Oriente, sempre più premiato da critica e pubblico. Il Far East Film Festival di Udine riempie il suo programma dal 24 aprile con 75 titoli, 48 in concorso e 27 fuori concorso, provenienti da 11 paesi. Cinematografie diverse che il festival riesce a collegare proponendo una narrativa popolare accanto a quella di film d'autore e di omaggi al passato, per fissare lo sguardo sull'Asia di oggi. Green Wave è il titolo scelto per l'apertura del festival, film che riflette sul fenomeno del cosiddetto tankpin, ovvero quando i giovani rifiutano le logiche competitive del successo e della carriera, e poi storie che attraverso linguaggi diversi raccontano l'emancipazione femminile. Il gesso d'oro alla carriera quest'anno va a Sylvia Chang, attrice, cantante, regista, sceneggiatrice, produttrice e DJ radiofonica, un'icona del mondo artistico orientale. Sabrina Baraccetti è il direttore artistico del festival. La vedremo nel suo primissimo film, che si chiama Shanghai Blues, del 1984, e la vedremo anche matura in un nuovissimo film che arriva da Taiwan, che si chiama Daughters Daughters, sulla storia di tre generazioni di donne. Per cui ci sarà molto da apprezzare, sia i film più prettamente di genere, quindi non so, cito un horror stupendo che si chiama Dark Nuns, con delle suore esorciste, che arriva dalla Corea del Sud, sia opere un po' più autoriali. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti: nella sala conferenza del Bastione Lalio al Castello di San Giusto a Trieste, la conferenza Compagni di Cordata, Emilio Comice, Giordano Bruno Fabian. L'incontro fa parte degli eventi legati alla mostra Verso le Vette, l'alpinismo a Trieste, fino all'8 giugno nelle sale espositive del Bastione Fiorito alle 17. Al Teatro Verdi di Pordenone, ciclo di appuntamenti, di approfondimento e dialoghi sulla società. Beppe Severgnini alle 19, editorialista del Corriere della Sera, parlerà dei nuovi giovani, i boomers, che sfidano il tempo inseguendo il mito dell'eterna giovinezza, tema approfondito anche nel suo ultimo libro, che si intitola Socrate, Agata e il futuro. L'appuntamento pubblico sarà condotto da Marianna Aprile. Che cosa sta succedendo in Turchia? Conferenza organizzata da Dialoghi Europei al Circolo della Stampa di Trieste, in Corso Italia 13, alle 17, a parlare degli ultimi sviluppi della situazione dopo l'arresto del sindaco di Istanbul. Saranno Federico Donelli dell'Università di Trieste e il giornalista Pierluigi Franco. A Pordenone l'Unione Atei Agnostici Reazionalisti organizza l'incontro dedicato al tema dei conflitti etnici e religiosi con Taher Jafarizad e Patrizia Guglielmini alle 19:15 in via Stradelle. Storie dal confine, aneddoti, curiosità e memorie di qua e di là della Cortina di Ferro a Nord-Est, un libro scritto a quattro mani dai giornalisti Donatella Tretiak e Guido Barbella, che sarà presentato alle 18 all'Antico Caffè San Marco di Trieste. È un libro che esplora storie affascinanti del periodo della Guerra Fredda lungo il confine orientale d'Italia, raccontando episodi che vanno oltre la politica ufficiale di un territorio che, nonostante le divisioni politiche, restava il più aperto d'Europa. Al coautore Guido Barella ci abbiamo chiesto perché sulla copertina del libro campeggia una mucca divisa in due da una linea bianca. C'è una mucca ed è forse la mucca più famosa di Gorizia, e la mucca della famiglia Zoff in località Rafut si ritrovò con la stalla in Jugoslavia e con la casa appunto della famiglia Zoff in Italia. Era ed è, rimane l'immagine del paradosso del nostro confine. Ma ci sono state anche tragedie familiari? Assolutamente, perché come sappiamo tantissime famiglie sono rimaste divise e per i primi mesi, ma direi anzi i primi anni, non hanno potuto incontrarsi. Esemplificativo è quanto avvenne poi nel 1950, il 13 agosto, con la famosa Domenica delle Scope, quando proprio spontaneamente la gente si ritrovò, la gente che era rimasta in Italia con i parenti che erano finiti in Jugoslavia, si ritrovarono e poterono abbracciarci. È un libro anche per coloro magari più giovani che non hanno visto il vero confine. Sì, ma non solo per i più giovani che non l'hanno visto, ma noi crediamo che non solo nel resto d'Italia, ma anche forse in alcune parti della nostra regione, quelle più lontane, diciamo così, dal confine, tutto sommato quella che è stata la vera storia di Trieste col governo militare alleato e quella che è stata la vera storia di Gorizia in quegli anni siano molto poco conosciute, e quindi ecco, è un'occasione per riappropriarsi della nostra storia. Andrea Marucic, TGR Friuli Venezia Giulia. Se i gatti potessero parlare, il nuovo libro dello scrittore sardo Pierle Giorgio Pulixi, dopo La libreria dei gatti neri, edito da Marsilio nel 23, che è stato un vero e proprio caso letterario da 60.000 copie vendute e molto amato in Francia. L'autore sarà alla Lovat di Trieste alle 18. Al Centro Culturale Casa Candussi Pasiani di Romas di Sonso, in occasione della Festa de Patria dal Friul, la rassegna letteraria Romance d'autore ospita Walter Tomada con il suo ultimo lavoro Friulani eretici, storia millenaria di disobbedienti irriducibili e bastan contrari. Gli ultimi del Risorgimento, democratici, garibaldini, mazziniani tra irredentismo, nazionalismo e rivoluzione, di Roberto Spazzali alla libreria Ubic di Trieste alle 18. Al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons alle 20:30, presentazione del libro Lì parli, catalogo della mostra integrato da scritti, poesie, racconti e teatro di Gigi Manfrin, edito dal gruppo cordenonese del Chavedal. Diabete 2, riconoscerlo, gestirlo, istruzioni per l'uso. La pubblicazione del Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici verrà presentata all'ospedale San Polo di Monfalcone alle 17. A Trieste, inaugurazione della mostra Metamorfosi, la rinascita dall'abbandono a cura del gruppo Trieste Abbandonata al Monte d'Oro Shopping Center alle 18:30. Visita guidata della mostra Fotografia Vulz alle 16 con la console del Touring Club Laura Carlini Fanfogna e con il curatore Antonio Giusa. La mostra è un percorso fotografico lungo oltre 100 anni attraverso il filtro della famiglia Vulz, che per più di un secolo gestì l'omonimo atelier fotografico, dalle 15:45. Andy Warhol, Beyond Borders a Palazzo Antems Petzenstein di Gorizia, una visita guidata oggi alle 18, la mostra ha già superato i 32.000 visitatori. Le associazioni sportive friulane presenta la Rete Civica Sportiva Friulana, un progetto gratuito per unire associazioni sportive e culturali a difesa dell'identità e della lingua friulana. La presentazione si terrà alle 17 nella Sala Talotti dello Stadio Friuli. Parteciperanno società sportive di rilievo come Web Cividale, Madrax, CDA Volley, Talma Sons e Rugby Udine. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Tommaso Vinoni, Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. I prossimi appuntamenti con l'informazione, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica torna alle 15 su queste frequenze. E da Francesca Terranova e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.